Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, oggi 27 agosto presso l'Abbazia Benedettina Santa Maria a località Terravecchia, Santa Eufemia Vetere. Ebbene, un appuntamento da non perdere al Magna Grecia Teatro Festival, perché c'è la rappresentazione teatrale della commedia Eunuchus di Publio Afrio Terenzio. Vediamo un attimo di che cosa parla questa commedia, ripassiamo un po' di drammaturgia classica insieme al regista Pietro Bontempo, buon pomeriggio, e a Vittorio Viviani, che è il protagonista della commedia. Buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio anche a voi, grazie. Una cortigiana amata da un soldato, questo è un po' l'inizio, giusto Pietro? Sì, sì. È una cortigiana che viene amata da un soldato e riesce a ottenere da lui una ragazza, regalo. Questa ragazza ha vissuto in giovane età presso la prostituta e quindi è come una sorella. Questa è la trama principale della commedia. Dopodiché su questo si innesta il fatto che di questa ragazzina che viene regalata alla prostituta si invaghisce il fratello di quello che è l'amante secondario della prostituta, che poi diventerà il primario perché riesce a scalzare il soldato. E questo ragazzo che si invaghisce di questa verginella riesce a farle violenza entrando in casa, però questa violenza viene riparata alla fine da un matrimonio che fa contenti tutti, diciamo così. Tutti gli esegeti di questa della commedia latina dicono appunto che all'epoca era meno sconveniente per una ragazza essere violentata piuttosto che essere consenziente. Quindi diciamo così che anche se fosse stata consenziente le faceva doveva fingere di essere stata violentata, perché il consenso a un fatto che avvenisse al di fuori delle nozze le buttava su di lei un'onta che non era facilmente lavabile, diciamo così, ecco. Ah, ecco, quindi era meglio apparire violento. Beh, insomma, noi preferiamo essere consenzienti oggi. Grazie a Dio, e grazie. Per noi la violenza ha tutt'altro valore tutt'altro, sì, senso, anzi, sarebbe una cosa terrificante oggi. E anche nella commedia, diciamo così, che a un certo punto, quando non si sa che la ragazza poi si sposerà, e insomma, perché si sa soltanto a un certo punto che la ragazza è una cittadina ateniese e quindi può sposarsi, quindi fino a un certo punto rimane violenza e quindi c'è anche una disperazione da parte delle amiche della ragazza che vedono la cosa come un fatto terribile, così come lo vediamo noi oggi. Però poi si riaggiusta tutto, perché basta che c'è il matrimonio dopo riparatore e allora diventa un fatto positivissimo ed esaltante. Ovviamente stiamo parlando di valori molto diversi da quelli nostri. Allora, Vittorio Viviani, che parte interpreti? La parte di un caratterista? È un caratterista, certo, è una parte di carattere, come si diceva una volta, quando c'era nel teatro la divisione dei ruoli. Adesso c'è, ma insomma si dice meno. È un servitore furbo, non sciocco, un servitore schiavo, con l'accezione del concetto di schiavo che c'era allora. Erano dipendenti assolutamente dei padroni, però con la possibilità poi di riscattarsi e diventare liberi. Gli schiavi poi avevano questa cosa di insomma arrivare al danaro del padrone, dipendevano dal danaro del padrone, non era schiavo con le catene, ecco, era un maggiordomo, un servitore, diciamo, nell'accezione più moderna. Io faccio questo per Parmenone, si chiama questo personaggio, è il servitore di questo innamorato della prostituta, che è un'etera, diciamo, non è una prostituta anche quella nell'accezione di oggi, forse è più una mantenuta che una vera e propria prostituta, prima mantenuta da altro, poi mantenuta da militare, qualcosa, eccetera, ma il vero sentimento forse più di amore è con questo Fedria, che è il mio padrone, anzi che è uno dei miei padroni perché fa parte della famiglia, c'è un vecchio padre, c'è questo Fedria, c'è il fratello più piccolo Cherea, che è quello innamorato della ragazza che viene portato il regalo, eccetera. Ora il compito di questo servo Parmenone è quello di mantenere il suo più o meno quel briciole di soldi che riesce a tenere, e quindi quando cerca di convincere il suo padrone ci crede anche che stare con le donne è terribile, perché quelle succhiano il denaro, quelle, l'amore è una cosa, è un sentimento che fa saltare il cervello, non ti fa ragionare, eccetera. C'è sotto sotto una sorta di gelosia economica, nel senso che lui parte dal presupposto che se il mio padrone, giovane, Fedria, si mette con questa, questa la riempie di regali, i soldi che spende per lei poi non me li dà più a me. Questa è la sua preoccupazione. Poi non solo, poi crea anche un altro inghippo, che è quello che per il suo padroncino Cherea lo traveste da eunuco al posto dell'eunuco vero, regalato da Fedria, che i regali allora per gli uomini e delle donne non erano gli oggettini, i gioielli, erano uno schiavo e uno eunuco, diciamo. Ecco, però, mica. I regali così, che uno certo non si può mettere né al collo né al polsino, però era così. Allora, però, per tutte le cose, visto che il giovane padroncino gli è piaciuta la ragazza, portata il regalo, eccetera, cioè, dice, come faccio? Lui è lui che gli suggerisce, io ti travesto da eunuco, tu entri lì dentro, e lui poi ne approfitta un po' troppo perché fa questa violenza, che rimane una violenza. Quindi Vittorio, diciamo, un personaggio furbo che vive di furbizie, di piccole furbizie. Un personaggio assolutamente, come tutti quelli in una condizione sociale subalterna, è costretto a essere furbo per cercare di sopravvivere. Come è un personaggio che anticipa, già c'è stato personaggi prima nella commedia attica, nella commedia latina stessa, eccetera, e anticipa tutti i grandi personaggi di serbi che abbiamo poi nella commedia, nella storia del teatro, lo troviamo in Molière, lo troviamo in Goldoni, lo troviamo nella commedia moderna, lo troviamo, è in qualche maniera un'anticipazione, oppure una deviazione dello Zanni, quindi del Pulcinella o dell'Alerchino per il Nord, è il servo che deve farsi furbo e sopravvivere perché ha una condizione sociale subalterna. Allora, ricordiamo, oggi presso l'Abbazia Benedettina di Santa Maria, località di Terravecchia, Santa Eufemia Vetere, il quarto appuntamento del Magna Grecia Teatro Festival, rappresentazione teatrale dell'Eunuchus di Publio Terenzio. Abbiamo sentito, grazie a Pietro Bontempo, la regia, e Vittorio Viviani, appunto lo schiavo, il caratterista, come ci ha detto, nei panni di questo servo che si arrabatta, si direbbe oggi. Grazie. Mi raccomando, facciamo sapere che è uno spettacolo molto popolare che fa ridere molto. Beh, insomma, l'abbiamo capito, grazie Pietro. Sentiamo è la chitarra di Francesco Bruno in musiche originali proprio scritte da lui. Questa canzone si intitola Namastè, e quindi noi guardiamo ad Oriente, ci volgiamo verso quei luoghi tanto cari a uno dei giornalisti più amati dagli italiani, si direbbe così, Tiziano Terzani, perché domani a Villa Adele ad Anzio alle 21 in provincia di Roma, Le parole altre, il lungo viaggio di Tiziano Terzani, è un viaggio multimediale portato in scena e ripercorso come in un sogno con appunto le musiche di Francesco Bruno. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio a tutti quanti. Ecco, che cosa avviene in palco? Questo è uno spettacolo del tutto nuovo nella sua composizione, nel senso che è veramente un multimediale nel vero senso della parola, nel senso allora che noi abbiamo con noi Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano, che racconta la vita di Tiziano, e ne ripercorriamo insieme a lei, ma lo ripercorriamo appunto anche musicalmente, perché dopo il suo racconto, che si riferisce ad ogni tappa del suo viaggio fisico e se vogliamo anche spirituale, noi suoniamo un brano ispirato appunto al luogo in cui Tiziano è stato. Ad esempio, il nostro viaggio parte dall'Africa, che è stato il primo posto dove Tiziano è stato, non ancora come giornalista e come scrittore, ma come inviato della Laura Olivetti, per poi diventare appunto invece giornalista scoprendo tutti i problemi dell'apartheid nel Sudafrica. E poi il nostro viaggio prosegue appunto in Siberia e ancora in Cina. E insomma, noi ripercorriamo praticamente le tappe fondamentali della vita di Tiziano, lo facciamo attraverso la musica, attraverso le parole di Angela, che racconta appunto anche per sua esperienza diretta ovviamente la vita di Tiziano, ad esempio quando ci racconta della Cina, ci racconta della loro permanenza in Cina, di tutto quello che loro hanno vissuto e riscontrato in quella dimensione. E mentre noi suoniamo, voglio dire anche questo, noi tra l'altro il racconto di Angela è tutto legato dalla musica, cioè non è una lettura di un testo, è Angela che racconta a braccio appunto queste tappe della vita di Tiziano, e noi interagiamo con questo suo raccontare suonando anche mentre lei racconta, e poi alla fine del suo racconto c'è il brano musicale, e alle nostre spalle ci sono dei video che sono realizzati in questa maniera qui, sono stati girati in tutte le parti del mondo del materiale video, e poi è stato montato in maniera artistica, quindi non sono dei videoclip tradizionali, ma sono una sorta di video artistici che sono legati alla musica che noi seguiamo. Questo è un po' l'impianto dello spettacolo. Quindi un viaggio verso l'Oriente, perché chiaramente Tiziano Terzani questo amava e questo ci ha fatto conoscere a noi italiani, e attraverso anche però la tua musica, Francesco. Allora ascoltiamo un brano di Francesco Bruno. Grazie Francesco, ricordiamo l'appuntamento sabato 28 agosto ore 21, Villa Dele ad Anzio a Roma, in provincia di Roma. Grazie. Grazie a voi tutti, buon ascolto. Summer Time. E adesso andiamo ad Andria, perché ieri è aperto il Festival Internazionale Castel dei Mondi, Andria in provincia di Barletta. Riccardo Carbutti, tantissimi gli appuntamenti quest'anno, lei è il direttore artistico del festival. Sì, sono state invitate 31 compagnie di 9 nazionalità diverse tra loro e con 160 artisti coinvolti, insomma una rassegna importante che dà un segnale anche al mondo dello spettacolo dal vivo in questo anno abbastanza tribolato per i finanziamenti alla cultura. In questo momento c'è Le Scarpe Teatro Minimo, sì. Di che cosa parla questo spettacolo? Le Scarpe praticamente è uno spaccato su una famiglia del sud che soffre le conseguenze di uno sviluppo mancato, ma che all'interno ha una forza incredibile per poter emergere. Fino al 28 agosto, poi però sì. Abbiamo Cantieri Teatrali, Corea e Centar za Kulturo a Smederevo, questo sì. Ce lo deve spiegare. Questo io lo spiego, insomma, innanzitutto i Cantieri Teatrali Corea, ed è il teatro stabile di innovazione di Lecce. Questo è un progetto molto particolare, seguito dai produttori di Lecce, che anche qui, grazie a un finanziamento gestito dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese, attraverso i fondi FESR dell'Unione Europea, hanno praticamente svolto uno stage di parecchi mesi all'interno di una cittadina piccola della Serbia, e in questa cittadina hanno raccolto l'interesse di 18 ragazzi di etnia rom, completamente all'asciutto da ogni esperienza teatrale, li hanno coinvolti, li hanno fatti entusiasmare, adesso portano in giro per l'Europa lo spettacolo tratto da un'opera di John Guy del 1728, da cui poi Bertolt Brecht ha tratto l'opera da Tre Soldi. Nove luoghi, 31 compagnie, 4 sostegni alle produzioni, 60 repliche, 9 compagnie straniere, 190 artisti, mostre, classroom, incontri con la scena e la critica teatrale contemporanea. Poi abbiamo Crest, Tempi Cromici, poi Drama State Theater, The Lady with the Dog, La Signora con il Cane. Esatto, questo è un punto cardine del festival, perché il festival si sviluppa su diverse direttrici. Una di queste appunto è la visione di spettacoli che provengono da regioni europee poco battute dai media più diciamo importanti. Quindi questo spettacolo, che è tratto da uno dei capolavori di Chekhov, La signora col cagnolino, è portato qui ad Andria per la prima volta in assoluto in Italia dalla compagnia Marianishvili State Drama Theater, uno spettacolo molto rigoroso, molto severo nelle forme e nell'estetica, e con una particolarità: chiaramente noi l'ascolteremo in lingua originale con i sovratitoli in italiano. Quindi è anche, diciamo, un impegno per gli spettatori che vengono, deve essere... Sì, certo. Devono essere preparati, però è un festival che sta crescendo, è cresciuto moltissimo. Ora, oggi abbiamo chiuso praticamente quasi tutti gli spettacoli in sold out, con un incremento esponenziale di oltre il 40% rispetto all'anno scorso. È una soddisfazione straordinaria, perché è un pubblico, come posso dire, non dopato, è un pubblico vero, reale, trasversale a 360 gradi, dove troviamo tutti, dalla massaia alla casalinga, al giovane, al pensionato che incuriosito, ecco, persone che sono essenzialmente incuriosite dai nuovi linguaggi. Allora, ricordiamo quindi il Festival Internazionale di Andria, Castel dei Mondi, in provincia di Barletta, giusto? Andria Trani, perché la città è una provincia, diciamo, come si dice adesso, policentrica, sì, perché poi vediamo che il festival si svolge in vari luoghi, come abbiamo detto, e l'appuntamento è alle 21 circa sempre? Ma anche alle 19.30, ci sono degli spettacoli che cominciano alle 19.30, altri che ne cominciano alle 23, per esempio quelli all'interno della Spiegeltent, che è una struttura, uno chapiteau in stile Liberty che abbiamo installato nella piazza principale del centro storico, dove il pubblico, dopo una giornata dedicata all'ascolto e alla visione di tutti gli spettacoli teatrali, può andare lì e può rilassarsi con dei concerti, con degli spettacoli teatrali, diciamo, defatiganti, diciamo così. Allora, Festival Internazionale di Andria, in provincia di Barletta, abbiamo sentito 9 luoghi, 31 compagnie e vari spettacoli, tutti quanti molto interessanti, fino al 5 settembre, grazie a Riccardo Carbutti. Grazie a voi. E allora, per capire dove si svolge meglio questo Festival Internazionale di Andria, noi abbiamo proprio qui a Summertime il sindaco di Andria, Nicola Giorgino. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, sindaco, abbiamo visto 9 luoghi, quindi che succede? È sempre nella città di Andria oppure si va anche in varie altre località? No, è sempre nella città di Andria. 9 luoghi, 31 compagnie, 4 sostegni alle produzioni, 60 repliche, 9 compagnie straniere, 190 artisti che si esibiranno nella nostra città per questo Festival ormai giunto alla 14ª edizione, che il 5 giugno ultimo scorso ha ricevuto un prestigioso riconoscimento premio della critica assegnato dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, per cui anche quest'anno presenterà un cartellone di tutta eccezione, proprio perché cerchiamo, attraverso la realizzazione di questo festival, di creare un momento culturale grandemente significativo per quello che può essere un punto di riferimento del nostro territorio. Sindaco, ma lei andrà a vedere questi spettacoli? Perché molto spesso i politici ospitano i festival, ma non ci vanno. No, sono un perfetto, non solo ho cercato di... Guardi che poi la rinterroghiamo. Sì, il cartellone, ma soprattutto ho frequentato il festival e quindi ci andrò. Oggi c'è il Teatro Minimo, che è un teatro tutto nostro andriese, del locale, del territorio, e poi ci saranno 3 grandi eventi di nicchia, che sono poi quelli che maggiormente attireranno coloro che sono appassionati del Festival Castel dei Mondi. Grazie al sindaco Nicola Giorgino, sindaco di Andria. Sono a disposizione per poi fornirvi chiarimenti all'esito. Assolutamente, la interroghiamo sui singoli spettacoli. Grazie a voi, grazie a voi, buon pomeriggio. E adesso andiamo in Lombardia, provincia di Lecco, parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, perché fino al 5 settembre da oggi c'è il Festival del Teatro Popolare di Ricerca, L'ultima luna d'estate, un festival ambientato in questa location, si direbbe così, molto particolare, e ce ne parla Luca Radaelli, autore, attore, regista teatrale, nonché direttore artistico del festival. Buon pomeriggio Luca. Buongiorno a tutti quanti. Allora, che cosa proponete quest'estate? Soprattutto a che ora sono gli appuntamenti? Vedo che si parte addirittura alle 18, alle 16:30, alle volte, e per proseguire fino alle 21. Sono 10 giorni di spettacoli in questa cornice molto bella della Brianza lecchese, quindi alle porte di Milano. Paesini ancora rimasti come erano, chiesette, ville, parchi, quindi quella che lei ha chiamato la location è molto importante. E qui ci sono spettacoli al pomeriggio per le famiglie, poi nel tardo pomeriggio ci saranno gli aperitivi teatrali, perché il parco è anche un luogo di produzione vinicola e di altri prodotti, formaggini, salami, eccetera, e quindi la possibilità anche di degustare questi prodotti durante uno spettacolo, e infine la sera gli spettacoli principali, quindi con vari artisti un po' da tutta Italia. Ecco, parliamo degli spettacoli principali. Qual è stata la vostra scelta? Che cosa proponete? Io vedo spettacoli con Yaya Forte, poi però anche spettacoli addirittura a notte tarda, clownistici. Insomma, ci sono varie tipologie. Sì, c'è un filo conduttore. Tutti gli anni noi scegliamo un tema. Quest'anno il tema è gli italiani, l'italiano. Quindi vicino ai festeggiamenti per l'Unità d'Italia abbiamo provato a fare una riflessione a modo nostro su chi sono oggi gli italiani e che lingua parlano, e allora quale mezzo migliore del teatro per scoprire qual è la lingua che comunica oggi. Abbiamo scoperto che, per esempio, molto teatro degli ultimi 20 anni utilizza il dialetto, i vari dialetti delle varie regioni italiane, ce ne saranno diversi esempi, appunto da dialetti settentrionali a meridionali, ci sarà una compagnia sarda, una calabrese, una pugliese, una umbra, eccetera. E in questa riflessione sull'Italia abbiamo invitato degli artisti che potessero fare un discorso anche più generale, quindi una napoletana come Yaya Forte, che mette in scena un testo di un lombardissimo come Testori, l'Erodiade, ci sembrava una bella combinazione. Poi vedo anche un altro testo, L'aborto, che dovrebbe essere un testo calabrese. Sì, Scena Verticale, che è uno dei gruppi del teatro di ricerca più importanti e più ultimamente quotati anche dalla critica, con questo spettacolo che parla anche qui di un pezzo di Italia, che è quello che ha portato alla legge sull'aborto, ma sostanzialmente è un racconto teatrale fatto in questo dialetto calabrese, ma molto facilmente poi decifrabile anche da chi calabrese non è, che racconta la storia di una donna sostanzialmente. Quindi quello che noi volevamo erano delle storie, dei racconti che potessero appunto essere, comporre un grande racconto su come sta diventando o è diventata l'Italia, gli italiani. Insomma, è sicuramente un festival da vedere, succulento, fino al 5 settembre. Chiuderete poi con Lella Costa, femminile singolare, Vedi alla voce poetessa. Ricordiamo, l'appuntamento è da oggi in provincia di Lecco, Lombardia, attenzione, parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Abbiamo sentito fino al 5 settembre, gli appuntamenti partono dal pomeriggio anche per i più piccoli, e per poi avere l'appuntamento principale alle 21. Io ringrazio ovviamente Luca Radaelli, autore, attore, regista e nonché organizzatore di questo festival. Grazie Luca. Ricordo solo il sito ultimaluna.org per chi vuole più informazioni. Grazie. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it oppure che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it. Per quanto mi riguarda, buon weekend a tutti.